Quindi gibili a te. Lai lai lai lai lai lai lai. Chi bavi si becchete. Lai lai lai lai. Quindi gibili a te. Lai lai lai lai lai lai lai. Chi bavi si becchete. Quindi gibili a te. Chi bavi si becchete. Quindi gibili a te. Ciao a chi sta che non ti chieda te. What's my love a te. We all what?